alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia, di Mario Tobino. Pilli era innamorato dei timbri. Appena si arrivò nell'oasi, nonostante si fosse in riposo, Pilli fece funzionare la tenda di medicazione 9x11. Cominciarono a furoreggiare i timbri, i quali divennero, nelle sue mani, carne viva, sensibile. Poi dopo, durante il suo comando, sacri come le ostie del Signore. I soldati, che quali automi inscientemente intendono tutto, cominciarono a toccarli con delicatezza, forse presaghi del futuro. I timbri volavano a picchiare il dietro delle buste, ogni rigo del quaderno chiedenti visita, ogni spazio dove si potevano stampare. Una volta si era verso mezzogiorno e Pilli, per tutta la mattina, si era agitato su malati inesistenti e aveva punito, visitato, rivisitato. Aveva molto scritto sul quaderno delle visite, non riconosciuto malato da punirsi severamente. E tali frasi aveva sottolineato con due righe d'inchiostro e una densa con lapis blu. Era Pilli in quell'ora senza giacca, ma naturalmente ricoperto del gilet color pisello. Era l'ora che imprecava, rivolgendosi ai soldati come a chiedere giustizia contro gli altri ufficiali medici che non lavoravano, e intramezzava queste lamentele con quella perenne di essere ancora primo capitano medico, e con l'altra preoccupazione di prender moglie per poi passare di grado, e chiedeva ai soldati di qualche donna che l'avrebbe sposato. Era Pilli a quell'ora con la bavetta agli angoli delle labbra, per avere infinitamente parlato, per aver creato per 4 ore continue un arrovellato ronzio dentro la tenda di medicazione, nella quale, a periodi quasi fissi, lentamente montandosi e infine urlando, diceva a un soldato che lui, soldato, era un impostore, che aveva offeso lui, capitano, che chiaramente aveva deriso il suo grado, e sempre in tono più alto, diceva sul muso del soldato, pallido, sull'attenti, silenzioso, spogliato, sbalordito, diceva a questo soldato, ti farò fucilare, ti mando sotto processo. Era appunto Pilli, in quell'ora di mezzogiorno, la quale aveva 4 ore precedenti, che si presentò sulla porta della tenda di medicazione, sorridente e servizievole come sempre, il postino. Pilli, che stava firmando, ripetendo le lamentele sulla sua non promozione, sulla incapacità lavorativa degli altri medici, eccetera, fu allora che, alzando gli occhi, si vide davanti il postino. Barlumò, diventò un puttino indiavolato, prese il timbro rotondo, quello sacro, e alzandosi gli andò vicino. Si piegavano in quel momento i muscoli delle sue labbra come vi passasse una voluttuosa elettricità, e pronunciò, sì, carissimo, e pa! Stampò al postino il timbro sulla fronte, perfetto, rotondo, che si leggeva ogni parola. Subito dopo questo gesto, Pilli, che si agitava di festa per ogni muscolo, i soldati ridevano, Pilli con rapidità fulminea intravide lo spettro del superiore, che l'avrebbe saputo. Allora, mentre ancora straripava di anarchica felicità, corse ai ripari e, mettendo una mano sulla spalla del postino, che era rimasto intontito, Pilli, rivolto ai soldati scritturali e infermieri, cominciò, «È un bravo ragazzo, ma sì, è bravo, ne è, che è bravo!» E direttamente a lui, con commozione, «Sei per me come un fratello, carissimo, sì, carissimo!» Ma già un'ombra distratta calava sulle sue ultime parole. Già altre immagini si presentavano alla mente di Oscar Pilli. Thank you. Ogni ufficiale aveva un attendente. Gli attendenti di solito sono fedeli ai loro ufficiali. Quanto più un attendente si mostrava affezionato al proprio ufficiale, tanto più Pilli si abbuiava contro di lui, poiché Pilli voleva che tutti i soldati guardassero lui, si rivolgessero a lui, e perché temeva che l'attendente, insieme con l'ufficiale, gli complottassero contro. Pilli aveva dunque in sospetto gli attendenti. Pilli frequentissimamente aveva nella bocca le frasi «per il bene che ti voglio», «carissimo», «mio caro», «sei per me come un fratello», frasi che incastravano il discorso e che, se qualche volta erano smemoratamente pronunciate, di solito sembravano fresche, nate proprio in quel momento che le pronunciava. Anzi, queste sue frasi, «per il bene che ti voglio», eccetera, ormai veleggiavano per l'accampamento. Era frequentissimo udire un soldato, un contadino della campagna di Bari, che rivolgendosi a un altro «senti mio caro», e l'altro contadino di Anghiari che iniziava la risposta «per il bene che ti voglio». Naturalmente questi modi accadevano lontano dalle orecchie di Pilli. Un dopo pranzo Pilli si avvicinò alla mia tenda, dove sulla porta se ne stava il mio attendente, il quale si alzò vedendo Pilli avvicinargliesi. Pilli era in una di quelle ore di calma, aveva il volto disteso come quando uno ha dormito serenamente. Alzò il dito verso il volto del mio attendente, dondolandolo in segno di vaga minaccia, come manifestazione di un certo broncio, e cominciò, dopo qualche secondo, «per il bene che ti voglio», e fece dei puntini di sospensione. Rimase come sull'orlo di una bianca nuvola. Fin qui era la solita frase ormai nota, divenuta vocabolario dei nostri soldati, ma Pilli, quasi avesse una piccola involontaria felicità, aggiunse «non ti voglio più bene» e sorrise, chissà se su di lui o per qualche altra immagine che gli era apparsa, e se ne andò. Il mio attendente subito andò dagli altri soldati. C'erano in specie alcuni aretini che ormai ripetevano a memoria le frasi di Pilli, e disse la breve scena con Pilli e quel che gli aveva detto «per il bene che ti voglio, non ti voglio più bene», la quale frase sembrò ad alcuni bellissima, essendo tali soldati nuovi, gustando per la prima volta il piacere della dizione, ed essendo soli nel deserto. E ripetutola prima alcune volte tra loro, sperarono di farne una gemma, di divertirsi con quella, e dopo poco questa nuova frase corse allegramente le tende, che era sera, i soldati in riposo, il caldo scomparso e sostituito da aria primaverile, e i soldati sono i più grandi bambini che esistono. Nel silenzioso pomeriggio, sorpresi Pilli a scrivere una lettera a sua madre. Scriveva in un angolino della tenda di medicazione. Me la lessi. Gli scriveva in quella lettera lui bambino sperduto in un deserto, contornato da mosche e da scorpioni, sospeso tra la penuria, le inguaribili malattie, l'abbandono, ma innanzitutto vi diceva il senso dello sperduto, del bambino solo in fondo a un abisso. Mi avvicinai mentre mi leggeva e vidi allora, oltre la sua solita calligrafia chiara, una cosa che mi procurò un certo stupore, cioè le sottolineature. Pilli, quando scriveva su cose di servizio, sottolineava, per dare alle parole maggior risalto, quelle più importanti. Poi, rileggendo, sottolineava ancora delle parole nuove, che erano anch'esse importanti, e rileggendone sottolineava ancora delle altre, aggiungendo una seconda linea, più marcata, alle sottolineate in precedenza. In ultimo, uno scritto di Pilli era composto da parole tutte sottolineate, poiché ai suoi occhi tutte gli erano sembrate importanti, anzi importantissime, come era solito dire lui che usava regolarmente i superlativi e i super superlativi, come la parola inaudito. Anche la lettera alla madre era sottolineata, e mentre me la leggeva ne aggiungeva ancora, e presto ogni parola avrebbe avuto sotto la sua riga. E così fece sull'indirizzo, e sottolineò il nome di sua madre, che certo era importante, e il cognome, e la via, e il numero. La città poi di sottolineature ne ebbe diverse, anche con lapis rosso e blu, lapis che era sempre in uso, insieme ai timbri, sul tavolo di Pilli. Nella parte posteriore della busta, Pilli scrisse il suo grado, nome e cognome, il recapito, e poi subito vi stampò il timbro, che diceva esattamente ciò che aveva scritto la mano. Ma e poiché la stampa del timbro si era un po' sbocconcellata da una parte a causa di una piega della busta, Pilli ripiombò con un'altra stampatura che questa volta andò meglio e la guardò soddisfatto. Allora mancava il francobollo, Pili aprì il cassetto del tavolino e mise fuori diverse lettere che aveva ricevuto nei giorni passati. Le mise sul tavolo ed esaminò di ciascuna il francobollo usato che avevano sulla busta. Ne scelse uno che era poco macchiato dal timbro postale. Lo inumidì, pazientò, avvicinò il viso sudato al francobollo. Il viso in quel momento esprimeva quello di un paziente uomo colpito ingiustamente di continuo dalla nequizia. Lo staccò. Aggiunse altra gomma al francobollo staccato, che non ne aveva più. Lo appiccicò alla nuova busta, che ora era completa. Sospirò. Non si sa se per aver finito un paziente lavoro o perché afflitto da un dispiacere. E mi disse: «Non è inaudita la vita che facciamo. Si dice dei forzati e noi non siamo santi». E mi guardava come un fratello. Si produsse l'avvenimento inaspettato. Pilli diventò comandante. Il maggiore ricevette un telegramma che lo trasferiva. La sezione fu radunata perché il comandante partiva. Un uomo debole si emoziona. Il maggiore ruppe dalla bocca delle parole. Un altro fatto inaspettato fu che il maggiore, il quale aveva più volte convenuto sullo squilibrio morale e intellettivo di Pilli, si rivolse a lui e davanti a tutti lo ringraziò, gli era grato. Gli lasciava la sezione, che egli la guidasse, eccetera, eccetera. Tutti, soldati, sottufficiali, ufficiali e il medesimo Pilli, ascoltavano. Il maggiore partì. Pilli salì sul trono, con le natiche inusitate. Sedendosi, gli luccicava tutto il volto. Quale comandante andò insieme al capitano di amministrazione a Tripoli a prendere 1 milione per il reparto. C'era come sempre il sole. I due partirono con l'ovunque. Ambedue nervosi come le mosche della Libia. Pilli nervoso di luci deliranti, l'amministratore per essere vicino a Pilli. Riscossero a Tripoli questa somma, la quale Pilli, vedendo, si ebluì, come quando vedeva un generale. Ansimò le narici, col sole africano gareggiò l'attività automatica della sua mente. Camminò per Tripoli con l'amministratore che aveva 1 milione nelle tasche. Negli occhi di Pilli danzavano miriadi di 1000 lire. I fogli da 1000 che avevano loro dato erano nuovi, stampati con esattezza, sembravano fogli di sottile metallo. Pilli camminò un poco vicino al milione, poi disse all'amministratore con la gola secca che sì, carissimo, il comandante sono io e, carissimo, devo io tenere il denaro. L'amministratore non ebbe difficoltà e gli passò i pacchi da 1000. Pilli, con una tempesta leggera e veloce di immagini, camminò per la città con, sì, carissimo, 1 milione in fogli da 1000. Ma poiché sorsero anche le immagini che se li perdeva, lo rubavano, responsabilità, processo, accuse senza averli rubati, prima resistette, poi disse all'amministratore che era lui il responsabile, chi amministra il denaro. L'amministratore disse che glieli ridesse. Andarono a tavola. Pilli accennò più volte al denaro che c'era nelle tasche dell'amministratore. Quando l'amministratore andava a Tripoli con uno di noi, lui, sempre perché era ricco, anziano e gentile, aveva piacere di offrire il pranzo. A Pilli non l'offerse perché era troppo infastidito. Pagò soltanto il suo pranzo. Allora Pilli fece portare dal cameriere anche il suo conto. Il cameriere lo portò e attese. Pilli stava parlando, non accennò a voler pagare subito. Il cameriere si allontanò per altri servizi. Ritornò per farsi pagare, visto che due si accingevano a partire. Pilli disse: «Ma ti ho già pagato!» E rivolgendosi all'amministratore: C'eri anche tu, hai visto, tu lo puoi dire. Il cameriere non aspettò né la testimonianza dell'amministratore né altre parole di Pilli. Rispose subito che lo pagasse, perché non l'aveva. E alzò subito la voce. Pilli diventò un giocoliere di circo. Si contorse, disse, sì, carissimo, guarda come ci ha creduto. Quant'è? Ma guarda come ci ha creduto. E rideva con affetto verso il volto del cameriere. E pagò, sebbene sospiri gli uscissero insieme col denaro. Usciti dalla trattoria, decisero che era tempo di ritornare nell'oasi, che era distante da Tripoli. Per la strada Pilli parlava, l'amministratore no, perché era infastidito di essere insieme a un uomo come Pilli. Come l'ovunque si fermò, erano nell'oasi di Sorman, davanti alle tende della sezione, ed era notte. Fuori di una sentinella tutti dormivano. L'amministratore si avviò alla sua tenda. Pilli lo fermò dicendo, «Senti, carissimo, il denaro lo debbo tenere io, sono comandante e responsabile, farò mettere davanti e dietro la mia tenda due sentinelle». L'amministratore dubitò, irato, poi gli dette il pacco dei denari e la cassa dell'amministrazione dove erano rimaste poche migliaia di lire. Pilli portò tutto nella sua tenda. Svegliò l'accampamento e dopo un po' vi furono davanti e dietro la sua tenda due sentinelle. La sua tenda, chiusa, traspariva dai teli luce perché dentro era illuminata. Poi il lume si spense. Dopo un po' si riaccese. Comparve fuori Pilli e disse alle sentinelle di accompagnarlo alla tenda dell'amministratore. Arrivato alla tenda dell'amministratore, che stava addormentandosi, Pilli l'aprì e disse, «Perdonami, carissimo, tu hai ragione, per il bene che ti voglio, sì, hai ragione, e ti do la parola d'onore che ho torto, te lo metto per iscritto, hai ragione, il denaro lo devi tenere tu, la cassa è tua, te l'ho portata, hai le sentinelle, ti faranno la guardia, hai ragione, carissimo, tu lo sai, sei per me come un fratello». Ritornò alla sua tenda. L'indomani l'amministratore pregò Pilli di venire anche lui a verificare il fondo di cassa, presenti tre ufficiali come si è soliti prima dei pagamenti. Pilli venne. Le sentinelle portarono sul letto dell'amministratore la cassa che fu aperta. L'amministratore, che aveva anche nella vita civile un simile impiego, cominciò a contare attento e tranquillo. Quando arrivò alla fine, disse che mancavano 1.000 lire. Ricontò. Mancavano 1.000 lire. Pilli ripeteva in mormorio, «Sì, carissimo». L'amministratore, che non gli era mai successo, manifestò una dubbiosa ira. Riprese il denaro. Contò ogni gruppo di denaro a parte, quello che già era nella cassa e il nuovo, cioè il milione in fogli da 1.000. Le 1.000 lire mancavano dal milione. Quando li aveva ricevuti dalla banca militare li aveva contati. Erano 1.000, ora 999. Guardò la serie. I fogli erano numerati progressivamente. Erano per la prima volta usciti dalla fabbrica in pacchi da 100. Mancava dal terzo pacco il numero 059519V11. Pilli a quella scoperta esclamò, «Ah, erano numerati!» con la saliva secca. Allora cominciò a ripetere, come in sonnambulismo, «Sì!» Poi di un tratto gridò verso l'amministratore, «Tu sei il responsabile!» Gli ufficiali presenti lo guardarono attoniti. Pilli aveva ora nella voce, negli occhi, nell'aggressività che così dicendo manifestava, nell'espressione di tutto il volto, stretti come in un mazzo di fiori velenosi, l'avarizia, la cleptomania, il gusto sadico di far passare per ladro un uomo onesto, la consapevolezza di essere il comandante, il pauroso bagliore dei gradi superiori ai quali poteva venir denunciato, ma innanzitutto brillava in ogni particella del suo volto il morboso piacere per il male. I tre ufficiali, le sentinelle, videro allora, in quel momento, come per trasparenza, chi era anche Oscar Pilli. Mentre il sole era immobile con le ali aperte sull'oasi, tutti sotto le tende, in un'ombra di pianta, nascosti, imbambolati stavano, essendo le 2 del dopopranzo. Pilli usciva di nuovo dalla sua tenda, e a quei due che l'aspettavano faceva burlesco e silenzioso cenno. Si avviava, pestando la sabbia scottante, verso la casa araba, a quell'ora deserta, perché i cucinieri, assettate le cucine, andavano a riposarsi. Entrava. Quei due erano dietro, chiudeva la porta. Tutti e tre erano dentro, sopra di loro il cielo. Pili allora, contornato dai due compari che aspettavano, si dondolava un momento sulle gambe, poi divenuto quasi rigido, fermava le braccia semialzate nell'aria come le tengono i giovani santi nelle immagini sacre, e intanto ammiccava burlescamente gli occhi celesti. Poi, alla svelta, come volesse sciogliersi in fretta da quel preludio e venire al fatto, cavava dalla tasca la chiave della stanzetta dove erano ammucchiati e rinchiusi i colli di sanità. Il lucchetto scattava ed entravano dentro. La damigianetta dell'Isir di China, nascosta dietro una fila di colli, veniva tirata fuori dai due soldati. Empivano di Elisir una bottiglia. Con bicchieri e bottiglia, tutti e tre, furbescamente guardinghi, uscivano dalla stanzetta e si mettevano in mezzo all'atrio pieno di sole. Prima bevevano un poco. Pilli, che teneva la bottiglia, offriva, golosi, i due soldati. Allora Pilli si rivolgeva al muro di fondo e iniziava la messa. Usava una voce stentorea, ma rattenuta, per non farsi sentire, con gorgheggi gutturali, specie nelle curve del canto, accompagnando con movimenti delle braccia, che spesso apriva al massimo, e così le rimaneva. I due soldati si erano messi in ginocchio sulla sabbia e rispondevano giustamente, avendo servito la messa da ragazzi. La messa aveva dei periodici punti culminanti, nei quali Pilli rimaneva muto, fermo, rivolto verso l'alto o verso il muro, con le braccia aperte. Dopodiché faceva una piroetta, si rivoltava ai due soldati inginocchiati, che allora tendevano il bicchiere e glielo empiva. Poi, dopo avere anche lui bevuto, schioccava la lingua, riempiva di nuovo i bicchieri che erano stati svuotati. Riprendeva il canto. Di nuovo versava il liquore, facendolo cadere dall'alto nei bicchieri, sicché attraverso l'aria l'elisir sembrava solo coagulato. A un certo punto c'era la consacrazione dell'ostia, dove lui faceva in silenzio ogni gesto, mentre le labbra spasmodicamente si pieghettavano di parole, di riso, di serietà. Poi la benedizione. I soldati ora si alzavano, andavano da una parte, ora si inginocchiavano. La bottiglia si esauriva col procedere della messa. Quando la messa era finita, Pili faceva ogni sorta di inchini, seri e burleschi ai due soldati, e intanto alzava la bottiglia facendo vedere che ce n'era ancora. I soldati tendevano il bicchiere. Infine tutto era finito. I soldati, guardinghi, uscivano. Lui li seguiva. La casa araba, l'accampamento, l'oasi, erano pieni di sole silenzioso. Thank you. I nostri pranzi, che erano intorno a una cassa sotto la rada ombra di un ulivo selvaggio, erano del tutto privi di nostalgia, di discorsi e commenti sulla guerra, di calme conversazioni. Erano attenti a Oscar Pilli. Egli cominciava il cibo, che ne mangiava moltissimo, e beveva, lamentandosi vittima, uomo colpito, e anche noi ci diceva disgraziati, con una tinta però di eroico, come anche di eroico ne gettava sopra di sé un velo. Questo all'inizio, noi in silenzio, in attesa. Lentamente Pilli intesseva un'altra strada, incominciava a muovere i passi. L'olivo selvaggio aveva sopra di noi le foglie pallide e immobili, il sole come sempre colava. Le mosche ronzavano sopra i piatti, fermandosi e scacciate immediatamente ritornavano dopo il loro breve spostamento. Il comandante all'improvviso si inalberava nel sole. Diveniva come un cavallo che s'alza sulle gambe di dietro e diventa alto, con la pancia bestiale sopra di noi, gli occhi iniettati di fuoco. Pilli aveva cominciato a raccontare una storia, si era rivolto più espressamente a uno di noi. Raccontava, per esempio, che alla sezione un giorno mancarono gli occhiali del maggiore. Tutti pensavano che qualcuno li avesse rubati. «Ecco che Capone li trova nella mia tenda di medicazione. Fu bravo Capone. Li restituì subito al signor maggiore». Noi ascoltavamo. Pilli continuava, rivolgendosi più particolarmente a uno. «Sì, mio caro, forse perché gli occhiali sono stati trovati nella tenda di medicazione li avevo presi io?» Il cavallo si alzava sulle zampe di dietro. «Forse tu credi che li abbia presi io?» «Io, Oscar Pilli? Guarda il mio petto. C'è il segno del valore. Oscar Pilli è un soldato». E gli si iniettavano gli occhi, il volto rossastro. Ora guardava direttamente a uno. «Ah! Ma tu credi che li abbia rubati? Dici che sono stato io il ladro! Io, Oscar Pilli, il ladro! Andrei a dire che ho rubato! Dici che ho rubato? Dici che ho rubato! Mi dai del ladro davanti a tutti, al tuo superiore! Mi manchi di rispetto davanti a tutti, a un superiore! C'è il tribunale di guerra! Io sono un ladro! Hai detto che sono un ladro!» Rivolgendosi a noi, «Avete udito? Siete testimoni, testimonierete, c'è la fucilazione, il tribunale, ti farò fucilare!» E dopo un silenzio sospeso diceva, pronunciando le parole velocemente e con precisione, questa frase: «Ho in tasca una lettera importantissima, importantissima, per un altissimo personaggio della Libia, e gli farà giustizia!» E così la punta culminata era sorpassata. Di qui in avanti Pilli si sarebbe, come al solito, diluito. Naturalmente nessuno aveva detto che Pilli era un ladro, e noi testimoni avevamo udito e visto stare tutti zitti. Noi avevamo visto e udito soltanto Pilli che sbandierava la sua lucente possanza di capo. E qui va pregato di considerare che noi eravamo in divisa militare, in zona di guerra, che Pilli era in verità il comandante, il quale è sempre creduto. E innanzitutto va considerata la burocrazia militare italiana, che è iniziata, procede, cieca, sorda, ottusa come uno scartafaccio, con nessuno, assolutamente nessuno, che osi intromettersi a far scorgere la verità. La procedura militare era uno scartafaccio che avanzava con una forza negativa ma tremenda, l'unica forza di quell'esercito italiano. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli. Ad ad altavoce@rai.it.